Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800240024. Sentiamo alcune voci dalla manifestazione di Piazza Farnese. Sabato, infatti, il filosofo e agitatore politico e civile Paolo Flores d'Arcais, insieme con Di Pietro e con altri spezzoni della sinistra e intellettuali, gente della cosiddetta società civile, hanno convocato in piazza i cittadini per protestare contro una legge che giudicano una tortura di Stato. La espressione è molto forte, è molto spessa, è molto incisiva. Sentiamo come argomentano, come hanno argomentato le loro ragioni, con un breve spezzone in cui a parlare sono Furio Colombo, l'ex direttore dell'Unità, ed Emma Bonino, la leader radicale. Di solito la politica si rivolge ai cittadini per chiedergli di uscire dal privato e di occuparsi della vita pubblica. Questa volta invece la politica fa una violenta inversione di marcia e, ubbidendo a un ordine della gerarchia vaticana, entra nella nostra vita più privata nel momento più delicato e più indifeso, al confine fra la vita e la morte, per dirci, ordinarci, prescriverci come dobbiamo stabilire il nostro comportamento in quel confine, o meglio come altri lo stabiliranno. Per negare che si possa esercitare una volontà quando si è coscienti, per negare che qualcuno a nome nostro possa esercitare una volontà che ci protegge quando quella coscienza non ci fosse. È una legge che impone un unico comportamento a tutti i cittadini. Questo è totalmente inaccettabile, perché ed è una questione appunto di libertà. Io rifiuto gli stereotipi del partito della vita, di Roccella e compagni contro un presunto partito della morte che sarebbe io, Marino e non so chi altro. Rifiuto anche la divisione tra cattolici e non cattolici, manco Ignazio Marino fosse un pericoloso miscredente. In realtà è una grande scelta tra chi è laico e chi non lo è, e tra chi ritiene che io non lo farei non può mai diventare, quindi tu non lo devi fare. Bene, alla manifestazione ha partecipato anche Beppino Englaro, che peraltro ha parlato da Fazio alla televisione di nuovo l'altra sera e stamattina anche qui ai microfoni di Radio 24 da Milan. E, insomma, io sono un po' severo con Beppino Englaro, mi dispiace, non vorrei esserlo, ma lo devo essere, perché mi sento ingannato da lui. Sono fra coloro che ha sempre rifiutato di attaccarlo e che ha, anzi, ho criticato tutti coloro che nel mio fronte, il fronte Acqua per Eluana, per intenderci, criticavano il padre. Mi sembrava che dovesse essere rispettato il carattere privato di questa storia. Ho avuto anche il dubbio, a un certo punto l'ho scritto sul mio giornale, se non si dovesse fare un vero silenzio stampa, perché alla fine, dopo le sentenze, dico, ma questa è diventata una storia privata, non ha più rilievo pubblico, perché il papà di Eluana dice: io do voce a mia figlia, chiedo delle sentenze ad hoc per questo caso specifico, non faccio una campagna per l'eutanasia, per il testamento biologico, è la mia storia, lasciatemi in pace, fate silenzio. E quindi io ero imbarazzato, siccome sono una persona normale, non particolarmente autentica, non più sincera di altro, ma ero imbarazzato, dico, questo padre chiede silenzio e noi che facciamo, parliamo? Non era così, perché appena 10 giorni dalla morte della figlia questo padre ha deciso di scendere in campo con pronunciamenti ripetuti, eccetera. Ora, naturalmente è un suo diritto di cittadino, ma lui ci aveva detto che dava voce a sua figlia, invece no, dava voce a se stesso. Lui è un vecchio socialista, mangia preti, Loris Fortuna, lo ha detto, lo ha raccontato, ha quell'ideologia, ha quella cultura, benissimo, per carità, non ho niente in contrario. Ripeto, è una condizione legittima, però non bisogna ingannare l'opinione pubblica. Io mi sento personalmente ingannato e quindi gliene voglio. Detto questo, passiamo alla discussione, che naturalmente non è una discussione di sentimenti e di affetti privati, di inganni e di disinganni, ma una discussione oggettiva. Ci vuole o no una legge sul testamento biologico? E se questa legge sia necessaria? Questa legge deve essere quella proposta dal senatore Calabrò e appoggiata dal governo, dai principali portavoci in materia etica del governo, come Eugenia Roccella, e sono già due ospiti che avremo ai nostri microfoni, oppure deve essere una legge in cui si ratifica la libertà del soggetto puramente e semplicemente, la libertà assoluta del soggetto di di avere delle cure oppure di rifiutarle, come sostiene l'altro fronte, tra questi firmatario dell'appello che ha portato in piazza la gente sabato, Gad Lerner, che è anche lui nostro ospite ai microfoni di Parliamo con l'Elefante. Bene, senatore Calabrò, lei ha presentato un progetto di legge, una proposta di legge in Parlamento che dice, articolo 5,6 se non sbaglio, bisogna nutrire e idratare i pazienti qualunque sia la loro volontà personale, e comunque questa volontà si è espressa. Tra l'altro, se si fa un testamento biologico, deve essere già chiaro a chi lo sottoscrive che su questa questione non gli si darà retta o non si terrà conto della sua volontà individuale. Più o meno la sostanza della cosa mi sembra questa, anche se naturalmente ci sono mille cose da aggiungere, bisognerebbe parlare in modo più complesso della sua legge. Ora, io ero per portare acqua e cibo a Eluana Englaro e sono del parere che nel conflitto tra la carità e il diritto il primato è della carità. La carità è l'amore, è la cura, è la deontologia dei medici o anche semplicemente l'amore delle suore per il corpo concreto di Eluana, per la sua vita vegetativa. E il diritto aveva il volto di Gorgona, di un plotone di volontari che erano disponibili in una struttura clinica a togliere la vita a quella ragazza. Tuttavia non sono convinto dalla sua legge, perché quando poi se si decide che si fa una legge, e questa legge, dichiarazioni anticipate di fine vita, possiamo chiamarle così, o dichiarazioni anticipate di trattamento, è una legge testamentaria in cui praticamente si interpella l'individuo, gli si dice che cosa vuoi fare di te stesso nel momento del trapasso presuntivo tuo da persona viva a persona che non sarà più viva, come vuoi essere trattato. E quando si fa questo, come si fa a negare allora a quel punto a questa volontà libera che si riconosce, che si vuole iscrivere in una legge un dominio assoluto? Come si fa, Calabrò? Come si fa a dire tu sarai idratato e nutrito qualunque sia la tua scelta e la tua volontà nel momento in cui si discute una legge, per legge, un provvedimento di questo tipo? Allora, io penso che in questa legge, in particolare nell'articolo a cui lei fa riferimento, si va coniugando carità, come lei dice, e diritto, perché quello che la Costituzione e quindi le nostre leggi debbono affermare è la libertà, la volontà di scelta nell'ambito delle cure. Di fronte a una patologia, un soggetto, un cittadino, ha la possibilità di dire al proprio medico: io non voglio essere curato in questa maniera, non voglio fare l'intervento chirurgico, non voglio fare la chemioterapia. E questo gli viene dato, gli viene permesso di dirlo anche in anticipo rispetto alla patologia, all'insorgenza della patologia stessa. Quello che non viene dato, non viene concesso, è quello che non concede la Costituzione, non può concedere la legge, cioè la libertà di dire: io voglio vivere e voglio morire. Idratazione e alimentazione non sono la terapia per una qualche patologia, sono il sostegno vitale per questa persona. È come dire: io voglio spararmi, allora ti concediamo di spararti. No, non te lo concediamo, non ti concedo di permettere di togliere acqua e cibo, perché acqua e cibo sono il tuo sostegno, non è la tua cura. Questa è una risposta, precisa. Gad Lerner, mi aspetto da lei una replica, poi anch'io ho le mie da dire, ma adesso vorrei sentire voi. Buongiorno, sì, mi conceda una premessa, come si suol dire, prego. Perché ho letto stamattina un articolo di chi conduce la trasmissione sul Foglio, sì, del lunedì, si intitola "Una commedia di vari impostori con padre dolente". L'incipit è il seguente: in confronto Goebbels era un fanciullino. Il finale invece dice: non ho mai provato un simile schifo, sì, in vita mia. Ora, io lascio agli ascoltatori valutare la consistenza simili affermazioni nelle quali mi sento coinvolto, perché, come lei giustamente ricordava, ho avuto una posizione diversa dalla sua nella vicenda Englaro e effettivamente considero lecito usare anche una parola forte come tortura di Stato, la usa anche Adriano Sofri sul suo giornale qualche volta, a proposito dell'ipotesi appena illustrata dal senatore Calabrò. Io ho 54 anni, ho figli, credo di avere una certa coscienza di me stesso, ho dei testimoni, lei stesso è mio testimone in questo momento e lo sono gli ascoltatori, circa una volontà che desidero esprimere, e cioè che nel caso mi dovessi trovare in uno stato vegetativo permanente o in una condizione analoga, non intendo che nel mio corpo siano mantenuti attraverso sondini nasogastrici o altri strumenti, ventilazione artificiale, eccetera, delle forme di vita che appunto necessitano farmaci nutrizionali o idratanti diluiti 24 ore su 24 attraverso sacche che non sono né le pagnotte né le bottiglie di plastica contenente acqua recate alle manifestazioni pubbliche contro il padre di Eluana Englaro. Io ho deciso di aderire alla manifestazione in Piazza Farnese semplicemente quando, di fronte a due esponenti molto rispettabili di due schieramenti politici, cioè Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera della PDL, e Paola Binetti, che invece è del Partito Democratico, ho chiesto loro: voi mi siete testimoni di questa mia volontà? Voi intendereste, nel caso in cui io mi trovo in stato vegetativo permanente, contraddirla, andare contro la mia volontà? E questi mi hanno onestamente risposto di sì. Ecco, questa invadenza dello Stato dovuta al fatto che io mi possa ritrovare sciaguratamente impigliato nella tecnica, perché questa è la novità che noi stiamo vivendo. Sì, Lerner, chiedo scusa, sto ascoltando con molta attenzione le cose che lei dice. Adesso poi parleremo anche di questo tema. Lei dice l'invadenza dello Stato. Per la verità, la campagna per ottenere una legge non è nata da Calabrò o da Eugenio Roccella o dalla Chiesa Cattolica. Infatti ci vuole una legge, io sono convinto ci vuole una legge. Lei vuole quindi che lo Stato regoli quella che dice il senatore aspetti un attimo. Lei vuole che lo Stato regoli. C'è un'altra posizione, che è quella di Angelo Panebianco, anche la mia, che ho sempre espresso, anche quando Bagnasco, il presidente della CEI, ha detto ah sì, bisogna fare una legge, che dice no, non bisogna fare una legge. Non è mica detto che si debba fare una legge su queste questioni così delicate, così difficili, così complesse, così sottili, così particolari, che riguardano ciascuna un caso privato diverso. Quindi, infatti, in questo lei è agito alla chetichella. In questo la sua posizione è uguale a quella, diciamo, di coloro, dei fautori della legge. Comunque, Lerner, lei è un conduttore televisivo, quindi sa bene che c'è una preoccupazione chi conduce una trasmissione, dare un minimo di ordine e di senso. Allora, io ho chiesto a Calabrò, che è l'autore della legge, il firmatario della legge, il relatore della legge, ho chiesto: come fate nel momento in cui fate una legge a negare l'idratazione, il diritto di rifiutare idratazione e alimentazione? E lui mi ha spiegato: perché non sono cure, sono sostegni vitali, sono una cosa diversa dalle cure, e io non posso autorizzare nessuno a spararsi, a buttarsi da un ponte, a togliersi la vita. A questa cosa lei come risponde? Poi sentiamo la Roccella. A questa specifica, a parte... Mi sembra, come dire, intuibile anche da persone che come me non sono addette ai lavori, cioè dalla maggioranza degli italiani, che viceversa quelle sacche che non sono, come ho detto prima, credo di aver risposto in quel modo, che non sono pane, cibo, non sono nemmeno semplici omogeneizzati, non so come dire, non sono è sicuro di quello che lei sta dicendo, e, Lerner, è sicuro? Mi lascia, se mi fa una, senta lei... No, chiedo solo se è sicuro. Mi ha fatto le domande. No? È sicuro che non siano cibo semplice frullato? Esattamente, sono cibo semplice frullato, esattamente quanto l'ossigeno che viene introdotto nel corpo paralizzato con la ventilazione artificiale è l'aria che lei troverebbe scandaloso togliere a una qualsiasi persona. Non è carità, questo voglio dire al senatore Calabrò, non mi fido della sua carità e della sua vocazione caritatevole. Mi fido molto di più dell'amore che nutrono per me i miei figli, mia moglie, i miei fratelli, della relazione che c'è tra di noi e che è fatta anche di una scelta sul fine vita. E allora perché fare una legge? Mi lasci concludere. Perché fare una legge, Lerner? Come? Se lei si fida dei suoi cari, e anch'io mi fido dei miei cari, o ci fidiamo, diciamo, vogliamo rimanere in un ambito sociale. E anche sociale, dei miei medici mi perché fido. Fare una se legge? Possono agire opportunamente e al riparo, certo, perché sono momenti che non si esibiscono volentieri. La legge purtroppo è stata resa necessaria da vicende come quella di Eluana Englaro, perché si è manifestato un tentativo, insomma, di vietare per legge e di rendere così difficile, che ci sono voluti 17 anni, una scelta che, è vero, su questo lei ha ragione, il più delle volte, tante volte ogni giorno, viene pietosamente praticata negli ospedali, negli hospice italiani, d'accordo tra medici e parenti, che dicono lasciamolo andare, fermiamoci qui. Questo avviene continuamente nel privato, è giusto che questa possibilità sia contemplata nel pubblico, e ho finito, su questo dovevo finito, sia contemplata nel pubblico garantendo assolutamente a chi viceversa, come lei cita nell'articolo di oggi, la famiglia Andreatta desidera proseguire idratazione e nell'alimentazione, garantendogli naturalmente questa possibilità. Questo va da sé. Adesso allora, Lerner dice, non sono sostegni vitali, sono cure, i sondini nasogastrici, e poi dice la legge ci vuole perché il caso Englaro ha dimostrato che si tende a paralizzare, vietare, diciamo, a ostruire la volontà del singolo, quindi ci vuole una legge che lo liberi, mentre voi state facendo una legge che lo opprime e lo tortura. Roccella. Ma io quando sento parlare di tortura di Stato penso casomai a quella che è stata inflitta a Eluana Englaro, al protocollo, non parlo della volontà del padre, sto parlando del protocollo che è stato applicato in condizioni di confine tra legalità e illegalità, costituendo una sorta di isola extraterritoriale nel sistema sanitario nazionale, con la copertura dell'autorità locale, degli enti locali, e con l'accordo della procura, perché il ministero in quel caso non poteva fare nulla, ha mandato gli ispettori, ma gli ispettori hanno consegnato i rapporti in cui si rilevavano tutti i profili di irregolarità alla procura e agli enti locali che avrebbero potuto intervenire. Comunque io penso a questa morte solitaria di disidratazione e denutrizione, e questo a me sembra ai confini proprio con la tortura di Stato, perché si tratta di una sentenza. Questa tortura, questo protocollo è stato applicato grazie a una sentenza. La volontà, lì non c'era nessuna volontà esplicita. Ho detto tantissime volte che per la trasmissione di un bene materiale... Scusi Roccella, però come si fa a ripetere l'argomento la volontà era solo presunta, non era esplicita nel momento stesso in cui si appoggia e si voterà, cosa che lei immagino farà, la legge Calabrò, che dice anche se la volontà è esplicita, niente, non si sospende l'idratazione e la nutrizione. Lei capisce che è contraddittorio, non si può più usare quell'argomento sulla volontà presunta di Eluana se si fa una legge in cui anche la volontà accertata presso notaio, chiara, esplicita, viene negata. Guardi, il discorso non è proprio così. La volontà è importante per scegliere la cura. Il discorso che faceva il senatore Calabrò mi sembra dirimente. Noi abbiamo la libertà di fare qualunque cosa del nostro corpo. Noi possiamo buttarci dalla finestra, farci del male, ma non abbiamo il diritto di fare queste cose. Se configuriamo ogni libertà autolesionista come un diritto, fatto, vengono meno alcuni elementi fondamentali della convivenza, della solidarietà fra le persone. Se io considero che suicidarmi è un diritto, è giusto che nessuno blocchi più il suicidio che si sta buttando. Se io ritengo che... Questo è un argomento che mi sembra, diciamo, di peso. Non so, Lerner, lei che ne pensa di questo? Vorrei dire penso, che... Un attimo solo. Il sottosegretario Roccella... No, ha capito, Lerner. Lerner, scusi. No, ma a parte la polemica... Una scelta consapevole e meditata che uno possa prendere e che viene presa, guardate, tutti i giorni nelle nostre famiglie, nel rapporto con i nostri medici, nei nostri ospedali, liquidare come autolesionismo. A lei sembra sbagliato. Dopo però torneremo su un particolare, cioè la Roccella dice... dice c'è una questione di coesione e solidarietà sociale. Se tu una facoltà, che certo ogni uomo ha, no, privata, la trasformi in un diritto per legge, la facoltà di annientarsi, di annullarsi, il famoso diritto di morire, no? Perché è una questione ideologica, un dibattito culturale importante. Se la trasformi in diritto, la società cambia natura, insomma, e alcuni principi importanti rischiano di uscirne lesionati. Eccoci qui, 800 24 00 24, molte telefonate di cittadine. Anna da Milano, Anna? Sì, pronto. Sì, eccomi. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie, ma... Io sono laica, sono cittadina, sì, di uno Stato laico. E rispetto alla vita e anche alla morte che fa parte della vita, io penso che si debba poter scegliere in un rapporto tra medico-paziente o medico anche familiare del paziente. Non è necessaria una legge che obblighi, è necessaria una legge che liberi da questo punto di vista, perché il mio non essere cattolico può essere il mio essere buddista, comunque è qualcosa che non fa parte della realtà. La realtà è vita e morte. Il momento della morte deve essere rispettato. Purtroppo la scienza in questo momento può andare oltre e può portare e fare sì che la vita viviamo. Artificiale, lei dice, sì. Va la bene, grazie. Anna Maria da Milano. Grazie Anna. Anna Maria da Milano? Sono sì. Io? Eccoci, sì, è lei. Sì, buongiorno. Signor Ferrara, senta, innanzitutto io rispetto le sue opinioni. Devo Grazie. Dire che io sono una cattolica, non sono assolutamente d'accordo col suo pensiero. Recentemente, 2 mesi fa, sono stata operata e quando mi hanno fatto firmare per l'anestesia, io ho aggiunto una postilla. In alcun modo non voglio essere rianimata. Il dottore mi ha detto: signora, noi non ne teniamo conto. Quando sono rientrata, ancora oggi, dico a mio marito, che è un invalido al 100% ed è curato con amore, e magari non la pensa come me, ti prego, se non va avanti nessuna legge, presso l'ospedale c'è questo mio scritto. Dovete finirla, per favore. Abbiate un pochettino di rispetto anche per noi. Io non pretendo, bravissimi. E poi vorrei dire una cosa al ministro che è lì presente. Parlano tanto. Io sono venuta da una corsia e sono stata appena dimessa, dove c'erano 20 persone invalide quasi totalmente, con 2 infermieri ad assistere, e se dovevano defecare, dovevano aspettare, finiamola di dire tante stupidaggini. E questo è un ospedale del nord, va bene? Infermieri meravigliosi, il personale non c'è, e allora curiamo quelli che vogliono essere curati e quelli che vogliono morire, lasciati in pace, lasciateli morire. Io sono preoccupatissima. E anch'io dico lo di vedo, fronte signora, a tutti lo vedo, che signora, non voglio essere rianimati in alcun modo. Non c'è niente di male esprimere la propria opinione anche con un tasso emozionale forte come il suo. D'altra parte l'esperienza privata, personale, la spinge in questa direzione. La ringraziamo moltissimo. Marta da Firenze. Sì, buongiorno. Sì. Dunque, io volevo soltanto, prima di tutto, sapere, ma oggi il suicidio è ammesso per legge o no? Non è più reato da molto tempo. Una volta era reato. Non è più un reato. No, non è un reato. Allora, nel senso che se uno tenta di suicidarsi non va sotto processo, ecco, non se poi sopravvive. Non succedeva prima, ecco. No. Allora, a questo punto, smettiamola con l'ipocrisia di essere nutriti o non essere nutriti. Nel senso del, prendo l'esempio di Eluana, quei quattro giorni, vabbè, vogliamo dire, siccome è eutanasia, va bene, facciamogli una punturina, muore subito, se vogliamo accettare l'eutanasia. Non facciamo l'ipocrisia del nutrito, viaggiare sul crimolo per sapere se siamo ancora... io sento tanta incoerenza. Per esempio, ho sentito ora un signore che avrebbe sospeso la nutrizione a Eluana dire perché questa tortura di Stato. Allora, era tortura di Stato prima, quando veniva nutrita e idratata? Allora non hanno detto che non sentiva niente, che non era presente, che era assolutamente un corpo che non aveva più sensibilità e comprensione. Poi lo stesso termine viene usato dalla parte di là per quei quattro giorni. Chi si arroga il diritto di dire quella sente, non sente? Degli ignoranti, perché più delle volte i medici sono dei grandi ignoranti, quantomeno da un punto di vista... No, culturale. No, i medici riconoscono di sapere poco dello stato vegetativo persistente. Quelli che conoscono di sapere poco... E quando uno riconosce di sapere poco non è un ignorante, anzi è una persona saggia. No, infatti ho detto, comunque, grazie, di sapere grazie. Poco. Non sono ignoranti. Grazie Marta, grazie. Bruna da Genova e poi torniamo ai nostri ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Scusate la voce, ma sono raffreddata. Prego. Dunque, io guardi, vengo da un'esperienza di mia cognata che l'anno scorso ha avuto un'emorragia cerebrale. L'hanno operata, è stata 2 mesi in rianimazione, l'hanno operata alla testa, l'hanno tirata fuori proprio per i capelli, poi l'hanno messa in una specie di rianimazione un po' più leggera, dove è stata 8 mesi a vivere le pene dell'inferno, perché dopo 8 mesi è morta, ventilata artificialmente, nutrita artificialmente, idratata artificialmente, fatta evacuare artificialmente, urina uguale, tutta paralizzata. E questa donna, ogni volta che andavo a trovarla, mi diceva, mi faceva capire, perché non poteva parlare, perché aveva il ventilatore attaccato alla trachea, mi faceva capire, voglio morire. Io gli dicevo, torni a casa, lei mi faceva di no con la testa. Beh, questa è la rappresentazione effettivamente dell'orrore puro. E le voglio dire... La ringrazio Bruna. Calabro, beh, insomma, questa per esempio, quest'ultima è una testimonianza, abbiamo sentito pareri diversi, anche se credo che ci sia una forte... Ma, insomma, che dice lei di questo? Ma innanzitutto io vorrei fare una precisazione anche al dottor Lerner prima. Sì. Si tratta molto frequentemente di frullati, di omogenizzati, non c'è nessuna tecnica, molto spesso non c'è neppure un sondino, quindi non si staccano spine, con questo noi confondiamo le idee delle persone. Io mica penserei che il latte che dà una mamma attraverso il biberò lo sta dando con un sistema artificiale, è quello che consideriamo normalmente. Non possiamo certo immaginare che un bambino con gravi deficit cerebrale, la mamma possa decidere di non allattarlo più. Ecco, quindi attenzione, non confondiamo, molto spesso si tratta di cose molto semplici che vengono date per via naturale. Per quanto riguarda quello che gli ascoltatori hanno detto, io credo che molti hanno anche ragione, la ragione in 2 punti. Quello che la legge permette è che si possono rifiutare cure, la ventilazione, in questi casi, se ci sono situazioni in cui è la ventilazione che sostegna una difficoltà respiratoria, una patologia dei muscoli respiratori, una patologia cerebrale che incide su questo, allora quello è qualcosa che si può rifiutare, perché siamo rifiutare cure, come hanno ragione quanto dicono che bisogna investire molto di più in hospice, nella rianimazione degli ospedali, nell'assistenza domiciliare, cioè quello che bisogna fare è andare incontro a questi malati che sono dei disabili molto grave, ma non pensare certo di farli fuori. Ma lei, di fronte al caso specifico, Bruna da Genova ha detto è stato un inferno, poi è morta, ha passato 8 mesi terribili, mi guardava con gli occhi e mi diceva voglio morire. Questo è naturalmente una testimonianza ad altissimo, certo. Altissima intensità, certo. Emozionale. Allora l'idea che si fa una legge in base alla quale invece risulta obbligatorio... No, non confondiamo, è quello che le dicevo capire. Prima. La legge consente che questa persona possa aver detto anche prima io certe terapie non le voglio fare. e quindi non sarebbe arrivato a queste condizioni. Ma a fronte di questo ci sono le migliaia e migliaia di persone che dopo una rieducazione così dura o dei centri, la presenza in centri di risveglio per mesi e mesi della loro vita riprendono una vita normale. Questo va considerato, non possiamo considerare solamente i casi isolati. Bene, Filippo da Milano, poi Lerner. Buongiorno, buongiorno sì. Direttore. Io volevo portare la mia testimonianza in modo molto umile a questo dibattito. Ho un papà che soffre di Alzheimer, è in uno stato grave da una decina di giorni al respiratore, vado a trovare una volta alla settimana, impegni di lavoro permettendo, e ieri sono stato davanti a lui e mi ha fissato per tutte le ore in cui sono stato con lui. Mio padre viene alimentato con un sondino nasogastrico e secondo me il punto della vicenda non è la fragilità del malato, ma è la fragilità di chi sta di fronte, nel senso che non si può far diventare un diritto universale la propria fragilità soltanto perché non si è capace di stare di fronte a una situazione così. La malattia è una battaglia, le battaglie vanno vinte e sarebbe come far diventare un diritto quello alla diserzione, cioè di fronte alla battaglia si sta lì, ci si fa forza, si fa coraggio a se stessi e a chi soffre. Io ieri mi avvicinavo al suo orecchio e gli dicevo: papà, coraggio, sei una roccia, fatti forza che ce la fai. E ogni attimo che lui guadagna è un attimo di conquista. È umanissimo avere sentimenti come quelli del papà di Englaro, ma sarebbe disumano veramente porre fine a questa splendida avventura di lotta che arricchisce me ogni volta che ci vado e chiunque altro viene con me, appunto in favore di una mia fragilità. Lerner, grazie Filippo, lei è colpito da quest'altro tipo di emozionalità? Sono colpito in particolare dall'uso dei termini battaglia, lotta, e infatti ciò che più mi turba nel cipiglio con il quale il senatore Calabrò, il sottosegretario Roccella, indipendentemente dalla loro fede religiosa o meno, conducono questa campagna affinché io, che non lo desidero, sia costretto a che sia introdotto nel mio corpo un sondino nasogastrico, quello che più mi colpisce è il modo in cui vivono il tabù della morte, che è un tabù, come è noto, assai cresciuto dentro alla nostra società occidentale, la fatica che fanno coloro i quali in teoria dovrebbero dirci: affrontatelo serenamente, c'è una vita eterna, c'è un al di là, la fatica che fanno ad accettare il commiato, accettare che la morte fa parte della nostra esperienza, la paura per la morte che esprimono e che diffondono, quasi che quella donna che per 8 mesi ha vissuto l'esperienza della rianimazione non dovessimo considerarla serenamente come dire una donna che è rimasta impigliata nella tecnica, nel progresso medico-scientifico, che ha portato molti benefici, ma ha portato anche di queste situazioni di fine vita terribile da vivere. Roccella, è la morte come tabù che ispira le vostre battaglie? Beh, io potrei rovesciare il discorso e dire che la pulsione di morte che si sente durante la campagna per l'eutanasia, perché c'è anche una grande componente di campagna per l'eutanasia in tutto questo, anzi durante il caso Welby questo era stato reso molto più esplicito, adesso è un pochino più sotto traccia perché c'è la legge, ma insomma dietro c'è questo, la campagna diciamo per il diritto a morire, c'è appunto una pulsione di morte che se fosse effettivamente sentita dalle persone sarebbe devastante, perché una società in cui tutti vogliono prima di tutto il diritto a morire è una strana società, però non è questo, a me non piace, infatti mi dispiace che Rabbonino abbia parlato popolo della vita e della morte, io non ho mai detto queste cose, non mi piace dirle, non parlo neanche di solo di vita, io ho già detto quello che secondo me è in gioco è altro, è appunto la solidarietà, l'attenzione alla fragilità dell'altro. Vorrei dire prima di tutto che la signora di Genova che parlava di questa brutta rianimazione, di questa dolorosa vicenda, la persona che era in rianimazione era evidentemente capace di intendere di volere, lei stessa ha detto che gli aveva chiesto se voleva tornare a casa o no, cioè avrebbe potuto comunque chiedere la sospensione delle cure, perché esiste l'articolo 32 ed è sempre stato applicato. Ci sono sempre state persone che per esempio interrompono la dialisi e smettono di curarsi o smettono di fare una chemioterapia. Certo. Cioè, certo. Non c'è mai stato, esiste il consenso informato, nessuno, nessun medico lega il paziente al letto e lo obbliga a curarsi. Noi abbiamo paura di altro, io ho paura della disattenzione, ho paura del caso francese del malato di Alzheimer che siccome si dimenticava di mangiare e bere, in virtù dell'autodeterminazione è stato ritenuto una persona che aveva sostanzialmente deciso di morire e lasciato morire in una struttura pubblica. No, il Barrito è arrivato un po' in ritardo, 800 24 00 24. Perché non giochiamo a carte scoperte? Faccio questa proposta a Gad Lerner e a Eugenia Roccella. Siccome la trasmissione, vabbè, un po' di slogan da tutte le parti, compresa la mia, ognuno ci... Però poi alla fine abbiamo parlato dell'argomento e si è capita una cosa fondamentale. Mi pare, no? Poi correggetemi se sbaglio. Gad Lerner dice si ha diritto di decidere appunto della propria vita e quindi si ha diritto di, il diritto di morire. Il tema illustrato dal professor Veronesi in un suo ormai celebre pamphlet. E Roccella dice no, non si può trasformare una facoltà, che è quella di un potere che noi abbiamo su noi stessi, che è quello di annientarci, in un diritto socialmente garantito, perché... Allora, parliamo della questione vera, l'eutanasia. Se io ho diritto di morire, non si vede perché l'Italia non deve diventare come la Svizzera, dove uno può comprare un kit eutanasico, andare in una struttura privata d'accoglienza ed essere soppresso. Insomma, poi ognuno accamperà le ragioni che preferisce, uno vuole morire per una ragione, uno per un'altra, poi adesso non è che tutti vogliono morire, per fortuna c'è ancora un istinto vitale che sopravvive. Però, allora, il tema è l'eutanasia, non è il testamento biologico, Lerner. Visto che nel titolo del suo articolo di oggi lei accusa gli altri di essere dei bari, potrei ricambiarla e dirle che la proposta che lei mi sta facendo è una proposta da baro, perché porterebbe, ma naturalmente scherzo, ma ci potrebbe... Io non scherzavo invece. Come? No, lei scherza, ma io non scherzavo, io dico che siete dei bari sul lei serio. Lei non scherzava e mi dispiace, ma adesso invece scherzo. Rispondo alla sua domanda. Prego. Qua si vuole far credere che è necessaria una legge che mi obbliga a infilare il sondino nasogastrico perché altrimenti passa il diritto alla eutanasia, perché altrimenti passa l'eutanasia. Invece la novità con la quale, è una novità molto complicata, sulla quale è difficile avere un'opinione netta, ma la novità con la quale dobbiamo fare i conti tutti nella nostra esperienza di vita e anche i politici che ci governano, è il fatto che la fine vita si è complicata. Che il problema non è se lo Stato deve dare a me o meno il diritto di buttarmi dalla finestra, ma il problema è che come ci si deve poter comportare in diversi modi nell'infinita casistica nella quale restiamo impigliati alla tecnica nel nostro fine vita. Questo è il problema che ha vissuto Eluana e che vivono tante persone come lei tutti i giorni e che ciascuno di noi si chiede che cosa vorrei io se io mi ritrovassi impigliato in quel modo. E io credo che quindi non si tratti di stabilire il kit eutanasico, ma si tratti di stabilire senza ipocrisie, perché considero un'ipocrisia quella del senatore Calabrò che distingue il ventilatore artificiale dell'ossigeno dal sondino nasogastrico, dell'alimentazione, dell'idratazione che deve avvenire secondo procedure molto complesse che durano 24 ore su 24. Ecco, io credo che tra l'altro, siccome immagino sia il mio ultimo intervento, le aggiungo anche la domanda che lei potrebbe farmi, ma tra questa legge Calabrò che sta profilandosi e una non legge, se fosse brutalmente costretta a non scegliere, io sceglierei una non legge. Ecco, ma vede, Lerner, abbiamo la stessa opinione su questa questione, però io voglio dire, insomma, faccio appello di nuovo alla logica. Se diritto di morire non è una formula da baro che mi sto inventando io, è il titolo di un libro di Umberto Veronesi, senatore del PD, cofirmatario dell'appello contro la legge Calabrò, è uno che la pensa come lei. Io eviterei a usare quell'espressione. Va bene, allora, a lei non piace, c'è una distinzione e sono contento, mi fa piacere, voglio dire, perché è bene sempre che ci sia libertà di tono e libertà, diciamo, di... Però lei non usa quell'espressione. Fondamentalmente per ragioni religiose. Ecco, però la faccenda è quella, non è che è un'altra. No. Cioè, sì, perché no, ripeto, finché non c'è una legge, lo spazio è pietà, carità, deontologia medica. Se c'è una legge, io stesso che dico che in una legge non si può non riconoscere la volontà libera del paziente, perché se c'è una legge su quel tema, sei libero o no, è chiaro che devi essere libero, però aggiungo, una volta riconosciuta quella libertà è introdotta in Italia l'eutanasia, ma questo non è un discorso da Bari, è un discorso ovvio, se c'è il diritto di morire c'è l'eutanasia. Sì, no, non sono d'accordo con lei sulla ultima conclusione, mentre mi compiaccio, mi fa piacere che lei riconosca che non sarebbe decente una legge che mi impedisce di rifiutare il sondino nasogastrico, sarebbe una intollerabile coercizione della mia libertà, quindi mi compiaccio che lei sia d'accordo con me su questo punto e si differenzi dalla Roccella e da Calabrò su questo punto, è molto importante sottolinearlo, ma detto ciò io non riesco a pensare che il mio conclamato rifiuto della idratazione, alimentazione e ventilazione artificiale nel caso mi trovassi in stato vegetativo permanente, che io dico per radio, dico per televisione, metto per iscritto come mia volontà di 54enne consapevole, lei questo non me lo può paragonare all'eutanasia, perché è un'altra cosa. Roccella. Io non capisco perché è tanto intollerabile solo il sondino nasogastrico, perché noi stiamo facendo una legge e la stiamo facendo perché anche io sono d'accordo con lei, l'articolo 32 della Costituzione c'era, ci si ricorreva abitualmente, secondo me era sufficiente, tutto il resto erano relazioni e non c'è una soluzione alla invasività, diciamo, della tecnologia se non nelle relazioni, non ce n'è un'altra, perché non possiamo fare una legge con le infinite casistiche a cui ognuno di noi può essere sottoposto, visto che la fine di una persona è unica, è sempre un caso singolo, difficilissimo da scrivere in una normativa. Però qui il confine è chiaro, cioè abbiamo un articolo che parla di libertà di cura e cerchiamo di fare una legge sulla libertà di cura in cui rifiutiamo le terapie, ma c'è un confine con il diritto a morire. Ma perché non facciamo marcia indietro, Roccella? Per esempio, io ho pensato anche questo, meglio le sentenze. Perché il caso Englaro certo è stato terribile, perché lì c'era una volontà solo presunta, le sentenze alla fine hanno dato ragione a questa volontà presunta in condizioni culturalmente direi spietate, però la sentenza almeno è una sentenza su un caso specifico, cioè i giudici della sezione civile di Milano hanno fatto una inchiesta, diciamo loro, sul caso Eluana Englaro. La legge dovrebbe regolare tutto allo stesso modo, è assurdo. Le sentenze sono più liberali, cioè tendono a realizzare di più un'idea sia di libertà sia di non solo di protezione della volontà libera, ma anche di protezione della società dalla deriva eutanasica. Meglio le sentenze che una legge, o no? Ma io credo che invece dietro le sentenze ci sia una linea interpretativa molto precisa dell'articolo 32 e una non dico un disegno, perché no, non voglio parlare di disegno, non amo, però insomma certamente c'è una linea di interpretazione precisa che conduce da qualche parte, basta vedere quali sono state queste sentenze, in che direzione vanno queste sentenze, che cosa, anche basta vedere che cosa è la sentenza Englaro. Quindi io lì sarei molto attenta, non voglio, devo dire personalmente, affidare la mia vita a un giudice, preferisco affidarla appunto alle relazioni o a una legge che metta dei paletti, delle garanzie e che tra l'altro è verificabile attraverso mille contrappesi, cioè io posso fare un referendum, è votata da parlamentari che vengono votati. Sì, questo è vero, questo è vero, il mentre procedimento democratico è quello. Giudice, creo un'infinita serie di casi che poi alla fine fa legge, fa normativa, alla fine c'è una legge nascosta. La ringrazio molto. Domani parliamo, grazie a Roccella, grazie. Domani parliamo delle ronde. Lerner vuole rimanere domani? Magari, no. C'è tempo? No, rifacciamo coppia, forse non è il caso. No, va bene, d'accordo. Allora cercheremo un altro profeta dell'antirondismo. Grazie Lerner, grazie a Roccella e a Calabro che è andato via. Grazie a tutti voi, alle molte cittadine, donne che ci hanno telefonato, c'è sempre una inquietante sproporzione a favore dei maschi nelle telefonate, stavolta si è completamente rovesciata, ne sono lieto, grazie a tutti, domani a parlare di ronde, a fare ronde, grazie a Gloria Guerrera, a Franca Fossati in redazione, Alessandro Chiappini e Giorgio Mattè, Gianluca Nicoletti prenderà la parola dopo il GR con Melog 2.0. A domani.